Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Quella di oggi è una puntata speciale, monotematica, tutta dedicata al design. Nel giorno di chiusura dell'evento che per una settimana trasforma Milano nella capitale mondiale del design, parliamo del Salone del Mobile. Lì abbiamo realizzato la puntata di questa sera. Gli oggetti devono fare compagnia. L'unica costante della realtà è la mutazione. Parole di due grandi maestri del design, Achille Castiglioni e Bruno Munari. Parole di grande ispirazione anche per le riflessioni attuali sul mondo del design. Apriamo così la nostra pagina dedicata alla 55esima edizione del Salone del Mobile di Milano, appuntamento irrinunciabile per un settore che muove quasi 25.000 miliardi. In quella che viene considerata la vetrina internazionale di riferimento si danno appuntamento più di 300.000 operatori da oltre 160 paesi nel mondo per conoscere tutte le novità del settore attraverso i prodotti degli oltre 2.400 espositori. Questi dunque i numeri dell'evento che, lo abbiamo detto, fa di Milano la capitale mondiale del design, perché detta la linea, per così dire, anticipa le tendenze, lancia i nuovi talenti e consolida le posizioni di progettisti e aziende, dall'innovazione sui materiali e processi di lavorazione al fenomeno delle riedizioni. E qui non posso non citare la mia folgorazione di quest'anno, la tube chair di Gio Colombo per cappellini, fino al recupero degli stili del passato. Il primo designer che abbiamo voluto incontrare qui al Salone è Giulio Iacchetti, premio Compasso d'Oro nel 2001, grandi collaborazioni per grandissimi oggetti. Iacchetti è noto per inventarne di nuovi, come Moscardino, la posata che gli è valsa appunto il massimo riconoscimento nel mondo del design. Grande attenzione all'artigianalità, come testimonia il suo progetto interno italiano, e grande sensibilità per un design che lui definisce accogliente. Direi che su Milano splende il sole, non è solo una metafora perché sono giornate splendide, ma splende il sole della creatività. Mi sembra che ci sia una creatività diffusa, ben organizzata, giovani che progettano, che vogliono mostrarsi, aziende mature che presentano prodotti buoni in media, e trovo che sia un momento veramente magico per la nostra Italia. Tra le creazioni che firmi al Salone, una collezione di maddie, di credenze, quindi un oggetto antico che torna a nuova vita. Ecco, ce le vuoi raccontare? Esatto, realizzato per un'azienda che si chiama Alfa da Fre, una bellissima azienda veneta, e con loro ho sviluppato questi contenitori che possono essere trasversali all'interno della casa, dalla camera, al soggiorno, al corridoio, alla cucina naturalmente. Hai evocato il termine madia, che è una parola che mi piace molto, credenza, cioè oggetti che anche nel nome, nella loro specificità, parlano di italianità. E infatti sono contenitori, vorrei usare una parola come questa, sinceri, umili, funzionali, discreti, ma che però mostrano anche la qualità del saper fare italiano, con alcuni dettagli che appunto mostrano quanto sia bella e forte la capacità italiana di lavorare il legno. Un forte richiamo alla matericità, viene proprio voglia di toccarlo questo oggetto, di sentire proprio la venatura del legno che è in evidenza. In un mondo che ti suggerisce come unico escamotage per avere a che fare con le cose, con le persone, la realtà virtuale, ripristinare il senso del tatto e naturalmente della vista è fondamentale per me. Un mobile, un oggetto d'arredo, deve essere non solo visto e usato ma anche toccato. La matericità di questo materiale Abet, che ho utilizzato per le pannellature, suggerisce proprio un confronto diretto e un ripristino del senso del tatto, che è una cosa meravigliosa. E poi un particolare incredibile, postiamo le immagini sulla nostra pagina Facebook perché raccontarlo non è così facile, questi angoli, vorrei dire stondati, ma non è così, raccontaceli tu. Io dico scapitozzati, che è un termine che si usa nel mondo dei boscaioli, quando si taglia la pianta e rimane solo, diciamo, la parte terminale. È un modo per raccontare l'interno. La pannellatura completa, ovviamente bisognerà vedere le immagini, avrebbe nascosto la grande capacità appunto produttiva, artigianale, di realizzare questo telaio così preciso, così dettagliato in legno massello. E allora scapitozzando l'angolo si nota, diciamo, la struttura emerge e la si apprezza nella sua sezione. C'è anche un aspetto funzionale, perché un mobile senza spigoli è un mobile amico anche in famiglia, in casa, con i bambini, eccetera. Colpisce sempre nelle tue creazioni questa compresenza di tradizione e innovazione, richiamo all'antico ma anche questa rivisitazione così attuale e l'attenzione all'artigianalità, che per te rimane sempre un caposaldo. Io ti ringrazio per questa domanda, perché credo che il nostro lavoro, sicuramente il mio, si possa riassumere in questa parola, cioè realizzare dei ponti, fare ricuciture, rammendare, e non ci possono essere cose nuove se non si ha uno sguardo o se non si ha alle spalle la conoscenza, il rispetto, la considerazione della tradizione di ciò che si va a fare. Lo slancio che ci viene da questa conoscenza e dall'aver approfondito questi argomenti è lo slancio che ci permette di fare cose nuove, ma le cose nuove devono essere sempre radicate nel passato. Da una parte si assiste al recupero di un oggetto antico come la madia, la credenza, dall'altra non si può prescindere in cucina dalla tecnologia, sempre più protagonista. In mezzo alle tante, tantissime innovazioni di Eurocucina 2016 ci ha colpito in questo caso non un prodotto ma un modo diverso per proporlo. È lo showroom virtuale firmato Lube, un'esperienza immersiva con gli Oculus Rift per configurare la propria cucina. Ce lo facciamo raccontare da Marcello Giulianelli, direttore controllo di gestione di Lube, che è venuto a trovarci. Ben trovato. Salve, buongiorno a tutti. Allora, di che cosa si tratta? Beh, abbiamo ricreato all'interno del nostro stand un'area dedicata a questa realtà virtuale, che effettivamente dà la possibilità di poter vivere un'esperienza decisamente immersiva e coinvolgente per i nostri visitatori e per i nostri futuri clienti. In effetti, viste gli enormi investimenti che le grandi aziende dell'high tech stanno facendo in quest'ambito, possiamo ipotizzare che una tecnologia di questo tipo in un futuro prossimo possa essere presente in maniera sempre maggiore all'interno delle nostre case. Quindi abbiamo voluto investire e proporre questa soluzione anche all'interno del nostro stand. Quindi in questo caso uno strumento con una ricaduta retail, perché possiamo immaginare che uno dei vostri clienti possa andare in uno dei vostri negozi e, indossando gli Oculus, configurare la propria cucina e toccare in modo virtuale e vedere l'effetto. Assolutamente, assolutamente. L'esperienza è veramente, e i commenti che ci sono arrivati in questi giorni sono veramente ottimi e incuriosisce molto la questione. Parlando di un'azienda come Lube, che può offrire effettivamente oltre 600 varietà di modelli colori, di varianti modelli colore, e che fa della personalizzazione degli spazi un proprio punto di forza, uno strumento come quello della realtà virtuale può dare effettivamente un valore aggiunto notevole e una facilitazione in ambito di progettazione e di selezione dell'ideale scelta, dell'ideale prodotto per il cliente finale. È un tema molto dibattuto quello, come dire, della ricaduta effettiva di strumenti come questi, che in questo caso escono da un laboratorio universitario, del resto la vostra è una collaborazione con un'università, per immaginare proprio un contatto con il consumatore, con il cliente. Sì, sì, grazie appunto alla collaborazione che abbiamo fatto con l'Università di Camerino e alla professionalità dei loro docenti, siamo riusciti a creare quest'area che effettivamente dà la possibilità di individuare il singolo dettaglio della componente, la singola finitura, e quindi il visitatore si trova immerso in una situazione dove può in tempo reale ambientarsi, visualizzare i propri spazi e al tempo reale appunto modificare luci e ambienti, oltre che il singolo modello, per poter scegliere in maniera più opportuna la soluzione ideale per le proprie esigenze. Grazie a Marcello Giulianelli per essere stato con noi. Grazie a voi. Ora ci fermiamo per una piccola pausa, restate con noi perché nella seconda parte andremo a caccia di talenti nel Salone Satellite e faremo un'incursione nel Fuori Salone tra pochissimo. Essere e avere. seconda parte della puntata speciale tutta dedicata al design dalla 55esima edizione del Salone del Mobile di Milano, edizione più che mai sotto i riflettori per il ritorno contemporaneo in città dopo 20 anni della Triennale Internazionale, evento dedicato alla riflessione sul design after design che andrà avanti fino al 12 settembre. Ripartiamo come anticipato dai 650 talenti del Salone Satellite, la manifestazione dedicata ai giovani designer, giunta quest'anno alla sua 19esima edizione, vera e propria fucina della creatività emergente. Adriano Palazzolo ha raccolto per noi le voci dei protagonisti. Satsuki Ohata è un giovane designer giapponese, ha 35 anni ed è alla sua terza volta al Salone Satellite. Quest'anno presenta la Fondue Light. Questa è la lampada fonduta. Ho usato una comune fonte di luce rivestita da una protezione che poi ho immerso in questo materiale, un fluido simile alle lozioni idratanti per neonati. Non va a fuoco se a contatto con le fonti di calore. È completamente sicura. Puoi spostare la lampada su e giù, immergendola nel liquido, come quando hai davanti una fonduta di formaggio. Puoi regolare la posizione e creare l'intensità di luce che preferisci. Peso specifico invece è la proposta di una giovane designer italiana che ha progettato dei manubri per palestra che sembrano tutti uguali ma che in realtà hanno un peso diverso. Sono Sara Ricciardi, ho studiato design del prodotto alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, la NABA. Qui presento peso specifico in cui appunto non cambia il volume del pezzo, quindi la dimensione, la grandezza, ma cambia il materiale del peso. Quindi abbiamo qui un peso in marmo, in alluminio, in plexiglass, in rame, in bronzo, in plastica, in legno, ed è il materiale stesso a dare il peso. Quindi variamo dai 500 grammi ai 9 kg con la stessa dimensione ma cambiando il materiale, quindi il suo peso specifico. Per capire però quanto pesano puoi solo provarli, non vedo l'indicazione. No, devi esperienziare il materiale, quello per me è la cosa importante da capire. Solitamente i pesi sono tutti i pesi da palestra, perché questi sono pesi da palestra, sono tutti in gomma. Qui quello che vai a esperienziare è il peso del materiale stesso. Torniamo all'estero, precisamente in Lituania, dove Rodion Zenevich ha progettato Pogo. Funzionano come i Lego, sono dei giocattoli, solo che sono fatti in feltro. Ci spiega lui stesso di cosa si tratta. Pogo is a soft meccano. Pogo è un gioco di costruzioni morbide, realizzate in feltro, che si combinano tra loro grazie a bottoni automatici a incastro. Con questo semplice sistema puoi creare infinite forme e hai infinite possibilità di divertimento per bambini e anche adulti. Non è ancora in vendita, siamo alle fasi finali della realizzazione del packaging. Probabilmente cominceremo online in estate. L'idea mi è venuta quando mi sono reso conto che diversi giocattoli sul mercato hanno una vita molto breve. E ho preso in prestito la regola dei Lego, blocchi che ti permettono di riprodurre qualsiasi cosa. Un sistema che aiuta a sopravvivere nella stanza dei giochi. Al Salone Satellite anche tante scuole di design internazionali. Chiara Pacchiarotti è una studentessa italiana in Erasmus a Valencia. È all'ultimo anno con la sua classe presenta qui a Milano un prodotto innovativo. Abbiamo realizzato per la Politecnica una collezione di 6 mobili. Un armadio, un organizzatore verticale, un comodino, un tavolo, una lampada e un baule per giocattoli, che hanno la particolarità di essere costruiti tutti con lo stesso materiale, che è un legno laminato, e sono stati fabbricati con una fresa a controllo numerico, tagliati nel nostro laboratorio, e abbiamo cercato di utilizzare meno sistemi di ancoraggio possibile, e sono quasi esclusivamente realizzati con degli incastri. E sono stati realizzati tutti orientandosi al disegno do it yourself, quindi alle piattaforme open source, che sono delle piattaforme online nelle quali si possono comprare dei disegni che possono essere realizzati da un artigiano facilmente anche vicino casa propria, oppure possono essere spediti direttamente già fatti al cliente che lo volesse comprare. Nuovi materiali, il tema di quest'anno. Marva Griffin è la fondatrice e curatrice del Salone Satellite. Nuovi materiali, nuovo design, perché c'è sempre una domanda da giornalisti, operatori che vogliono sapere i nuovi materiali. Poi anche i giovani designer che sono qui presenti, qualcuno non lo sa. Allora abbiamo pensato a questo tema e lavorato con istituti europei che si occupano di questo argomento. E loro mi hanno prestato dei campioni, dei nuovissimi materiali che loro, sulla quale loro fanno questa ricerca. In più ci sono aziende italiane ed estere, giapponese, brasiliane e poi anche designers internazionali. E sono esposti in una materioteca che spiega cosa sono questi materiali, come funzionano e così via. Tutti i designers vogliono venire qui a presentare il loro prodotto, perché la industria italiana, per piccola, media che sia, vuole lavorare con un designer, non copia. La società seria vuole il designer e poi c'è un give and take, dare e avere. Il designer arriva con l'idea, il produttore ha la conoscenza della produzione e lavorano insieme per portare avanti questo prodotto per poter dopo lanciarlo sul mercato. Ed è invece una riflessione sul classico, sull'anima classica del Made in Italy, la mostra Before Design Classic, al centro dell'allestimento il cortometraggio del regista Matteo Garrone. Sentiamolo sempre al microfono di Adriano Palazzolo. Dal mondo del fantastico, dei racconti, a quello dell'industria dell'arredamento, come si coniugano le due? Ma il legame mi sembra che ci sia, no? Comunque è un piccolo racconto che ha una sua dimensione fiabesca, dove abbiamo cercato di raccontare, no, come in qualche modo il bello non tramonta, il classico rimane sempre attuale. E quindi questa è una cosa di cui dobbiamo essere orgogliosi e che dobbiamo difendere, soprattutto, perché si tramanda di tradizione in tradizione e non dobbiamo perderla. Ciò che rende unica al mondo la Design Week milanese sono le centinaia di eventi del cosiddetto fuori salone, mostre, presentazioni e installazioni che trasformano la città in un contenitore trasversale di creatività. Abbiamo scelto Switch On, dal manodomestico all'elettrodomestico, la mostra allestita fino al 22 aprile, quindi resta ancora qualche giorno extra salone, un viaggio nell'economia domestica tra passato, presente e futuro, perché anche la cura degli ambienti in cui viviamo è uno specchio dei tempi. Antonio Albano, responsabile marketing di Forwork Folletto, tra i partner dell'iniziativa, insieme tra gli altri ad Alessi e Samsung. Abbiamo il nostro primo modello, il 33, è un modello che è nato negli anni 30, perché Folletto ha una storia un po' particolare. Faceva grammofoni e il nostro ingegnere nel 29, con un po' la crisi del mercato, perché nasceva la radio, nascevano dei vari trend, inserisce delle piccole manovelle che poi non erano altro che delle ventole, e ha inventato il primo aspirapolvere. È veramente curioso, molto piccolino, fatto in alluminio, qualcosa da andare a vedere. È un viaggio anche di costume, un viaggio che racconta l'economia domestica e quindi anche la trasformazione delle nostre abitazioni, è così? Sì, pensi che negli anni 30 ancora non tutti quanti avevano l'elettrificazione a casa, erano soltanto le persone benestanti, e quindi anche lì si vede, per esempio per l'ambito della pulizia della casa, ma anche tutto quello che sono altre brand presenti là, si vede come all'inizio si cominciano a sgravare quelli che erano i primi i lavori faticosi, per poi passare per esempio all'anni 60, dove c'è stato il boom dell'elettrodomestico bianco in generale, e anche lì, per quanto riguarda il nostro specifico, il boom delle aspirapolveri, quindi l'aspirapolvere che non diventa soltanto un mezzo per pochi eletti, ma diventa un apparecchio più mass market, e dall'altra parte comincia a sgravare quello che era il peso della casalinga, e quindi un trend di positività e anche di emancipazione da parte stessa della donna, fino ad arrivare per esempio agli anni 80. Gli anni 80 in cui c'è stato per esempio l'avvento in Italia di superfici come i tappeti o l'esigenza di lucidatrici aspiranti, perché è l'era del care, non soltanto della pulizia in se stessa. Fino a poi arrivare agli anni 2000, per esempio, negli anni 2000, dove cambiano anche le superfici, ci sono i trend del parquet o l'evoluzione dell'ambiente domestico cambia, la donna è sempre più emancipata, va a perorare tutte quelle che sono sue ambizioni professionali e personali, e quindi c'è bisogno di un elettrodomestico che sia sempre più veloce, sempre più piccolo. E per arrivare ai tempi odierni, dove il design, quindi non avere soltanto un prodotto funzionale, ma anche un prodotto bello che deve fare arredamento a casa. E proprio questo la bellezza della mostra, cioè andare a vedere dei prodotti che hanno fatto storia, no? E quindi non soltanto un'evoluzione tecnologica, ma anche antropologica, quindi un'evoluzione sociale che va a rispecchiare un pochettino quello che è stata l'evoluzione, il boom italiano. L'ultima voce sempre dal fuorisalone è quella di eBay Italia, che con eBay Lab installazione sul Fai da Te ci ha raccontato un altro dei fenomeni che trasformano gli oggetti che ci circondano nelle nostre case. La responsabile comunicazione Irina Pavlova. È un trend in continua crescita, su eBay viene venduto un oggetto dedicato al bricolage ogni 29 secondi e l'utente ha la possibilità di scegliere tra 3 milioni gli oggetti disponibili, tant'è che abbiamo deciso di dividere il nostro spazio su due livelli. Il primo livello racconta l'abbondanza degli oggetti disponibili e si termina la nostra installazione con tre creazioni inedite che stimolano e indagano il percorso creativo dall'idea alla realizzazione del progetto. Così un frigo vintage diventa una libreria, una cassettiera antica si trasforma in mobile disco bar, o la possibilità di creare un teatrino per i bambini partendo totalmente da zero. Insomma, non c'è limite di creatività. eBay Lab, design it yourself, il claim di quest'anno del salone e di eBay al fuorisalone. Gli italiani hanno riscoperto il piacere di mettere le mani, di creare qualcosa, di disegnare qualcosa che sia totalmente da zero, o rivisitare un oggetto non più utilizzato, dando una seconda vita, mettendo tutta la propria creatività, inserendo tutta la sua creatività nell'oggetto. Quindi Fai da Te bricolage e sicuramente New Black. Essere Avere finisce qui, puntata speciale dalla 55esima edizione del Salone del Mobile di Milano. Grazie in regia a Roberta Frisani. A domenica prossima, un saluto da Maria Luisa Pezzale.